ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. Il problema, caro Gio, non è tanto domani, è dopo. Cioè, come riprendere, come ripartire. Cioè, dopo che hai raggiunto quel livello, cioè, chi chiamare lunedì successivo? Su chi puntare? Cioè, affronta il tema con Pigi, perché fate quello che volete, decidete ovviamente voi. Ma non sarà facile, cioè, credo che la puntata di domani segni un prima e un dopo. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Çalhanoğlu per Ibrahimovic che scaccia la tensione, infila al primo palo e porta avanti Milan al 23esimo minuto. Zlatan Ibrahimovic apre il conto anche con la stagione 2020-2021. Non credo sia un caso. Ma come si fa a comprare un calciatore vecchio come Dzeko, che percepisce la pensione dell'INPS? Incredibile. L'anno scorso avevo telefonato per dire che la Juventus doveva comprare Icardi e tutti gli attaccanti bravi per vincere la Champions. Alla fine la Champions non l'abbiamo vinta e adesso dobbiamo comprare sia Suarez che Dzeko e soprattutto Icardi, perché è Icardi quello che serve al gioco di Pirlo. Buonasera presidente Rotito, ma Cambullà che ci faceva schifo a noi? Ancora, ma c'è cazzo da fare? Cazzo, l'abbiamo dato a Peperones, ma a noi ci faceva schifo, dimmi, lo dice, me lo dica lei. Metti i soldi se ce l'hai, no? Che cazzo? Ma beh, se ce lo diceva facevamo una colletta. Brava, una colletta, mettici pure tu moglie, vai, tu sorella. Va bene. Eccoci qui ragazzi, finalmente ci siamo, domani ore 18, Fiorentina-Torino, poi Verona-Roma, riparte il campionato. Finalmente, finally, non vedo l'ora. Finalmente, sì. Beh, non è che abbiamo finito molto tempo fa. No, ma non vedo l'ora comunque, a prescindere. Abbiamo finito l'altro ieri. Allora, ci sono due grandi gialli. Il primo giallo è dove era Pardo fino a 30 secondi fa, prima di presentarsi in onda. Era a pranzo. Pranzo. E il secondo giallo è... Che cosa succede a Dzeko e alla Juventus e a Suarez. Perché la notizia di pochi minuti fa... è che la Roma convoca Dzeko per la trasferta di Verona. Oggi sui giornali c'era scritto, sì, potrebbe però... già debuttare con la Juve o comunque arrivare a Torino per visite, tutti quegli adempimenti burocratici. Sappiamo tutti che Suarez ieri è andato a fare l'esame di italiano, ma a questo punto a logica non si capisce il perché. Aggiungiamo questo tassello giallo nel giallo dell'estate. E cioè Edin Dzeko che verrà convocato per la trasferta della Roma a Verona. Saluto il signore del salotto di Sky, Marco Cattaneo. Ciao Marco. E giallo rosso contro giallo blu. Beh, io devo dire, oggi ho avuto. Andiamo col botto. Oggi ti sono fischiate le orecchie per una decina di minuti. Chi è Capuano? No, ma anche meno, anche meno. Di 10 minuti intendo. Vabbè, ma non essere sempre preciso. Adesso ne abbiamo conto. Sì, ti sono aspetta, rifacciamo. Ti sono fischiate le orecchie per 4 minuti e 24 secondi, il tempo in cui abbiamo parlato di te, io e Capuano, dicendo che sei un fenomeno. 4 e 24. No, che allora poi è il tempo di una canzone che a noi piace. Vuoi cominciare tu? Sì. Vai. Lentamente scivola. La tua mano su di te, quel tanto che basta. Che basta. Ragazzi. Io ascolto. No, guarda Giovanni, io per lui ci abbiamo trovato spesso conforto insieme. Grazie alla musica degli Zero Assoluto e dei Negrita. Sì, non so in quali ordini, in quale ordine metterli, forse prima i Negrita. Semplicemente. Comunque Marco Cattaneo, lo diciamo che cosa lo diciamo? No, Lo dico io. No, io a casa del materiale compromettente di Marco Cattaneo. Un favoloso, strepitoso conduttore di anticipi, posticipi e dintorni, potrebbe fare la qualunque. Cioè, per me è uno dei talenti televisivi, io non so nessuno per dirlo. Però è quello che penso, lo penso da sempre. E poi è un grande amico. E io ho a casa dei cassettati. Anche all'inizio della trasmissione, certo. Nulla. Però io non l'ho sentita perché sono appena tornato dal pranzo. Quindi quel momento lì stavo sotto cercando di capire come scavalcare il tornello. Ma io ho detto Giovanni, cioè ora decidete voi, siete liberissimi ovviamente di convocarmi, per me è un grande onore, cioè come arrivare in nazionale, cioè come la chiamata a vestire la maglia azzurra. Però non so se ti ricordi, per Luigi, ai tempi di Sky, quando sostituimmo Caressa dei Grandi alla conduzione di Mondogol. Che settimana è stata quella? Non si parlava d'altro, nei bar di tutta Italia. Sì, ricorderete, no? Ricorderete. Non c'era ancora Twitter, ma eravamo già a Trend Topic, ancora prima di Twitter. E a quel punto per la rete, poi quando guarirono dall'influenza fu difficile tornare indietro, no? Io credo che sia lo stesso anche in questo caso. Ma io ricordo l'imbarazzo con il quale ci dissero lunedì chiudiamo tutti i convocati, lunedì noi chiudiamo tutti i convocati perché oltre non si può andare. Ci hanno proposto Hamilton, ci hanno proposto, però noi oltre, oltre non possiamo andare. Anche Federer voleva, ma gli abbiamo detto rispondere tutti i giorni, venire a fare il salto del tornello. Ma perché non fai radio, Keddu? Perché non fai radio? Perché aspettavo giusto la proposta, che effettivamente è arrivata soltanto 7 secondi fa. No, ma non è neanche una proposta, perché io, come sai, non sono un editore, altrimenti cioè farei il palinsesto tutto basato sulla musica indie. E tu, Pierluigi, perché invece non fai un programmino nuovo ogni tanto? Prima o poi lo faremo. Quest'anno pendica, ragazzi. Una cosa bellissima. Quest'anno ti prendi un anno sabbatico, come quelli bravi, basta che poi non vai a ballare come Allegri. Ma cucina con Oldani, fa tutti convocati. Hai ragione. Oh, no, ma infatti fa ridere questa cosa. Marchino, ci racconti qualcosa dell'emozione di tornare a scuola, anche tu, anche noi, tutti noi. A proposito, altra notizia di giornata, torna anche il pubblico. Per il momento 1000 spettatori, semifinali, finali dell'Internazionale d'Italia. Però in realtà l'apertura del ministro sarebbe anche applicabile agli stadi, se proprio dobbiamo leggere alla lettera. Adesso capiremo che cosa succede. Però raccontaci un po', insomma, le tue sensazioni. Ma sarebbe bellissimo, ho appena visto la clip che abbiamo confezionato per la ripartenza del campionato, domani siamo alle 17 con Fiorentina Torino, e c'erano immagini anche del passato con gol storici, le immagini più belle della storia degli ultimi anni della Serie A, e i tifosi festanti che si abbracciavano, esultavano, e ho pensato a quanto mi manchi tutto questo, cioè ad andare allo stadio, che è vero, Pierluigi, anche tu magari Giovanni ci siete stati negli stadi deserti, però andare anche per divertirsi, portare gli amici, passare una giornata con gli amici, vedere una bella partita, c'è una cosa che ci sembrava. Guarda, io ho un ricordo proprio come una Madeleine di febbraio, della sera del derby di Milano, poi gli interisti alla fine sono stati più felici, il primo tempo erano tutti contenti milanisti, in cui sono andato a vedere la partita per il puro piacere di vedermela, e devo dire con i piccoli privilegi ovviamente di un pass stampa, cioè, del fatto stavi, di conoscere un po' a bordo campo. Non stavo a bordo campo, però ho salutato 1000 persone, cioè era veramente, c'era tutto il mondo lì quella sera. Poi chiaramente, insomma, Inter Milan o Juve Inter o Juve Milan o Roma Lazio, cioè sono quelle partite speciali, però veramente questa dimensione manca tanto. Noi ci siamo sempre espressi, io sai che sono prudente per natura, perché col Covid non si scherza e l'abbiamo capito, quindi mai fare errori, però ragionare su delle soluzioni intelligenti per portare gradualmente le persone allo stadio, e magari anche per ragionare su una fruizione dello stadio che sia un pochino più tranquilla, più serena, questo secondo me va fatto, insomma, quindi perché no? No, perché no, è un primo passo, questo di oggi, vedremo poi come verrà declinato. Per il tennis è una grande vittoria, però voi immaginatevi ieri la frustrazione di Duplantis, che ha battuto Bubka dopo secoli e ha saltato in uno stadio vuoto. Sì, davvero, tra l'altro 3,25 metri, perché... Bubka è un altro che ha segnato, ha accompagnato tutte le tappe della nostra giovinezza, perché ogni anno stabiliva un record e guadagnava 1 miliardo, mi ricordo il record che batteva. Sì, sarebbe bello partecipare a tutti questi grandi eventi. Non so, a voi quando guardate delle immagini di vecchie partite, poi l'inquadratura va a staccare sul pubblico, fa strano, no? Perché ti sembra veramente fa strano, sembra un'altra era. Sì, ci stiamo disabituando, diciamo la verità, con amarezza, ma ci stiamo disabituando, e speriamo che prima o poi risucceda. Come te l'aspetti questa ripartenza, Marco? Che non si capisce niente, noi siamo onesti, lo diciamo anche tutti quelli che ci scrivono, Pier, chiedendoci, fate la griglia, diteci chi vince, chi va in Champions, chi retrocede anche, portate un po' di sfiga qualcuno, noi lo diciamo ufficialmente, non capiamo niente, non sappiamo niente, non sappiamo chi compra l'Inter, chi vende l'Inter, chi compra la Juve, Suarez dove va, il Milan, tu il Milan sai qualcosa, che sai che ieri ha vinto. Sì, ha vinto 2-0, ne so molto meno di voi, tant'è che anche la cosa di Dzeko convocato per Verona l'ho scoperta nei primi due minuti di convocati. Perché stavo mangiando una focacciona da Maramais qua. Dove? Sotto Maramais, è il classico bar del quartiere all'uscita da scuola, perché scuola è sottisco, okay. Mezzo, sì. Un piccolo, diciamo, spazio promozionale che mi sono preso, che non ho ancora pagato la piadina adesso. Vabbè, comunque queste sono cose nostre. Ma no, la cosa conoscendo, ti voglio dire anche al gestore, così, non la pagherà mai quella piadina, caro gestore, se vuole, però. Tra l'altro stanno tutti ascoltando ovviamente Radio 24. Si è allontanato facendo il vago col telefono in mano e la piedina. Accendete su tutti i convocati, ma erano già sintonizzati su Radio 24. La cosa particolare è che negli ultimi anni tutti facevano le griglie e mettevano Juventus, cioè non ce n'era uno che scegliesse un'altra squadra. Mi sembra che quest'anno ci siano più incertezze legate alla Juventus e in particolare alla guida tecnica, che è nuova, un allenatore di cui sappiamo praticamente niente per come sarà allenatore, e quindi quella credo che sia la grande curiosità. Però c'è a vedere quanto è cresciuta l'Inter, se veramente il Milan potrà tornare protagonista, cosa faranno le due romane, l'Atalanta, cioè, mi sembra che i temi siano tantissimi, con tutte le incognite del periodo. Senti, ma tu hai più fretta di incrociare in uno studio televisivo lì a Sky Pirlo e il suo modo, insomma, di parlare per monosillabi, o Conte che non parla da fine agosto, e credo sia anche stimolante il primo che riuscirà a parlarci? Io direi che c'è grande aspettativa, perché sentiamo tutti la necessità, il bisogno di sentire cosa dirà Conte, e credo che non so quale sarà l'evoluzione del mercato dell'Inter. Ma non lo sa nessuno, ne parlavamo anche negli altri 4 minuti questa mattina con Pier, gli altri, quelli che non abbiamo parlato di te. Però diciamo che non dovesse venire totalmente soddisfatto, potrebbe contare fino a 10 la prima intervista, fino a 10 la seconda, fino a 10 la terza. Però è chiaro che poi, visti anche i precedenti, potremmo pure aspettarci un nuovo sfogo. Questo mi sembra il principale dilemma legato anche al futuro dell'Inter. Oh, non ci ascolta nessuno, giuro. Ci ascoltano tutti. No, non ci ascolta nessuno. Tutti, da Maramais, ad esempio. Sono stato a pranzo, c'era un signore francese simpaticissimo. Sì. Francese, parla francese, parla un buon italiano, che ascolta, cioè fa... C'è la gente? Il capuano? Ti giuro. Ma ve la state preparando la prima di Conte o no? Come intervista intendo, perché poi i giornalisti sono un po' mignottoni. E la gente a casa, ma non ci sta sentendo adesso, vuole sapere, perché c'è il complottone, che sai che i giornalisti contro l'Inter, i giornalisti contro la Juventus, contro il Milan, ognuno al suo devo conto. Essere molto sincero, Gabo. Dimmi la verità, la state preparando o no? A me piace rispondere come calciatori, cioè io penso un'intervista alla volta, quindi Gianpaolo Iacchini per Fiorentina Torino. Soprattutto abbiamo rispetto di tutti e non temiamo nessuno, no? Questo me l'hai insegnato tu. E ringraziamo questo pubblico meraviglioso. Sì. No, però Giovanni posso dire una cosa proprio da mozione d'ordine, secondo me. Cioè, esistono, ma legittimamente, nel giornalismo sportivo, due diversi approcci che sono legati al lavoro che fai. Credo che il lavoro di Marco e anche il lavoro mio è un lavoro essenzialmente basato sugli eventi. Per cui, cioè, quando io, fra l'altro, ero sia a Dortmund la sera di Dortmund Inter che a Bergamo la sera di Atalanta Inter, quando Conte esplode in diretta, oltre a dire cioè è chiaro che c'è un interesse, no, da appassionati di calcio e da giornalisti su quello che dice, ma insomma non è che c'è la ricerca spasmodica, io non sto aspettando la prima intervista. Che di ballista Conte. Che sei, ma che scherzi, capo. La verità è che i giornalisti sono degli squali, sentono l'odore del sangue, ma perché siamo due categorie diverse, ma lo dico con affetto e con rispetto per tutti, perché invece è chiaro che chi deve cercare ogni giorno legittimamente, ripeto, un tema, una polemica, una discussione, è ovvio che di queste cose viva. Io mi concentro su Verona-Roma di domani sera vai Marco, vai. Voglio essere chiaro, è una cosa detta proprio col totale rispetto, cioè dipende da che cosa fai. Se hai da lavorare su un evento, ti focalizzi su quell'evento lì, cioè io mi focalizzo su come preparare Cumbulla, faccio per dirti, su studiarmi i numeri di Cumbulla, non su quello che dirà Fonseca a fine partita, ecco, quello. Però cioè è legittimo. Sono d'accordissimo, credo che poi molto dipenda anche dalla sensibilità di ognuno di noi, da quello che ci piace raccontare, far emergere dal carattere, non è un caso che io mi sia dovuto mi sono trovato ad affrontare alcune situazioni anche abbastanza critiche nei post partita, e non è che l'abbia gestita ora perché non ci sente nessuno e chi se ne frega, faccio autocritica, ma non mi sono trovato totalmente a mio agio quando l'uno ha litigato con l'altro, certo, quando il calciatore fa, perché non è una roba che proprio mi appartiene, ma neanche del tutto, proprio non mi appartiene. Ma lo so benissimo, io sono identico a te da questo punto di vista, cioè alcune cose che magari in certi momenti devono essere delle figate pazzesche dal punto di vista giornalistico della mia vita, chi mi conosce lo sa bene, Giovanni lo sa bene, e tu Marco lo sai bene, io personalmente le ho vissute più come una rottura di scatole che come un'opportunità, però ripeto, è fatto di carattere. Io e Cruciani, che spesso ci incontriamo e parliamo, scherziamo su questa cosa, no? Sì, anche Cruciani è uno che la vive tranquillo. No, Cruciani se non c'ha una polemica al giorno, qualcuno da insultare, qualcuno da cui è insultato, cioè se non è insultato da nessuno, se Cruciani si sveglia la mattina, apre Twitter e trova che nessuno lo insulta, si preoccupa, dice oddio sono morto, che mi è successo, sono sparito dal mondo, no? Sì. Ed è, ripeto, legittimo, perché ognuno nella vita fa quello che vuole, però Marco, io lo conosco, insomma, detto questo, poi è chiaro che quando ci sono, la domanda su Lukaku in Atalanta-Inter l'ho fatta io perché io so, ma lo sappiamo tutti, quanto Conte volesse Lukaku, quanto fosse un suo pallino, quanto gli servisse dal punto di vista tattico per costruire la sua Inter. Quindi questa cosa qui, poi la domanda giornalisticamente la fai, ma non è che io come Marco ho una emozione particolare quando qualcuno litiga, anzi. Insomma, non è il sapore del sangue. Allora, visto che ti abbiamo chiamato per fare le carte al campionato, allora adesso ci devi dire chi lo vince. Ah, non mi avete chiamato così per cortesia, per ricordare vecchi tempi. No, né per ricordare i vecchi tempi, né per raccontare quello che succede da domani. Non farti pagare la focaccia, l'abbiamo chiamato. Che il mio primo giorno di lavoro in cui ho fatto questo mestiere da stagista, telereporter, la prima persona che ho incontrato è stato Giovanni Capuano. Certo, lo sapevi già? Scusa, pensavo che abbiamo parlato di te 4 minuti e 24 stamattina. Credevo che in 4 e 24 avessi raccontato più cose tu invece di quelle. Ah no, tutti e due. No, più lui. 2-12 a testa. Ed eravamo assolutamente d'accordo. D'accordo sul talento. Guarda, la stessa cristallino. Cosa, proprio l'abbiamo letta insieme. Allora ci devi dire chi vince il campionato, chi va in Champions League, chi va in Europa League, ma soprattutto chi retrocede. Juventus, Roma e Milan. Juventus, Roma, Milan. Poi? Cioè in Champions League ne manca una. No, Inter, Juventus. Ah, Inter, scusa, Inter, non l'avevo capito. Quindi l'Inter vince lo scudetto. Sì. Con Juve, Roma, Milan, poi le altre sotto a questo punto. Sì. No? E ti risparmio chi retrocede, così, per non farti un dispiacere. Però mi stuzzica Liverani a Parma. Mi piace Giovannino Stroppa al Crotone. E vedo che la scelta anche filosofica di molte squadre è proprio quella di puntare su allenatori di un certo tipo, cioè giovani, offensivi, con una mentalità molto particolare. E quindi Liverani, secondo l'anno conseguito poi in trazione è andata male, ma se allenatori che retrocedono poi trovino subito una squadra in Serie A perché hanno trasmesso delle idee di gioco particolari, come era stato appunto Andreazzoli all'Empoli l'anno prima, mi sembra significativo. Sì, io tra l'altro torno a ripetere che ci sono 17 allenatori italiani quest'anno in Serie A, su 20, e dei 3, 2 sono praticamente italiani d'adozione, ma come secondo Mihailovic, c'è una ripartenza. Lo so che è difficile dirla, vederla, e forse porta anche un po' sfiga, no? È un po' lo stesso discorso che abbiamo fatto sulle vittorie della nazionale, abbiamo quasi paura di poter celebrare dei successi perché abbiamo appunto la sensazione che tutto potrebbe svanire, e del resto insomma il calcio italiano comunque anche i risultati delle coppe europee alla mano non è ancora riuscito a scavallare del tutto, però dei segni io li vedo, ed è un po' quello che dice Marco, cioè secondo me uno dei segni è anche questa ricerca del gioco, questa ricerca di allenatori che puntino un po' più sui giovani. Poi è ovvio, le grandi squadre, soprattutto le grandi squadre, cercano l'instant team. L'Inter fa un mercato over 30, la Juve è lì a decidere fra Suarez e Dzeko, quindi, però è pure vero che sono squadre che non possono sbagliare, che non sono abituate a sbagliare, e quindi siccome il tempo invece ai giovani serve, è tutto abbastanza logico, no Marco? Assolutamente. Ci sono state delle operazioni particolari quest'estate, ma perché c'è stato troppo poco tempo per ripartire, sono cambiati soltanto 5 allenatori, domani ne vedremo uno, Giampaolo, e il Torino cambia molto anche dal punto di vista della filosofia del gioco, no? Dell'impronta tattica, ma si è preferito dare continuità, penso all'avversario di domani, la Fiorentina di Iachini, chissà, probabilmente con 3 mesi tra la fine della stagione precedente, l'inizio della nuova, la proprietà avrebbe fatto valutazioni diverse, invece certo. Giustamente secondo me ha preferito continuare con Iachini. Avremo le 5 sostituzioni, l'assenza di pubblico l'abbiamo già detto, cioè ci sono tante variabili, ma l'abbiamo già visto nei due mesi di campionato giugno e luglio, e quindi queste variabili potrebbero poi veramente stravolgere i nostri pronostici. Sai che questa continuità secondo me potrebbe fare anche bene, perché è esattamente quello che dicevamo, no? Cioè tante volte c'è l'assillo, c'è la mancanza di pazienza, il non saper attendere. Questa volta, col fatto che praticamente fra un campionato e l'altro ci sono pochissimi giorni, forse si cambia di meno. Sì, non è convenuto a nessuno tempo, o quasi cambiare, no? Esatto. E ci potrebbe essere più tempo per sedimentare le cose, per lavorare, perché il tempo è una categoria dello spirito, una categoria filosofica complicatissima, ma è decisivo. La fretta porta quasi sempre a commettere degli errori. Intanto non so se avete visto come si è presentato il nuovo proprietario del Parma, certo. che è ufficiale da oggi, con quel video dove gratta via il logo della Juventus dal suo computer per attaccarci lo scudettino del Parma. Luigi conoscerà il suo vino probabilmente, credo, no? Bah, io conosco tutti i vini. Fece mille viaggi nelle Langhe. Tutti. Pare che abbia vigneti di altissimo livello. Quante proprietà americane, tra l'altro, tutte serie. Sono curioso di vedere anche cosa farà quella romana e romanista. Cosa succederà al Milan, perché secondo me l'ipotesi, la possibilità poi di una cessione della società è sempre nell'aria. Ah sì, voci che girano, parecchio. Sì, non so da chi, però mi sembra proprio l'evoluzione logica, naturale, certo. di quel progetto lì, dell'idea che aveva il fondo Elliott, ma proprio per definizione del fondo, e quindi secondo me possiamo aspettarci anche lì delle novità dal punto di vista della proprietà. Beh, l'indizio c'è, perché comunque adesso al netto dei meriti di Maldini, che sottolineiamo tutti i giorni e sono indiscutibili, c'è anche un elemento oggettivo di possibilità, di capacità di spesa che il Milan del recente passato sembrava non avere, che quest'anno invece sembra avere, no? E sì. Quindi la sensazione che, o comunque la possibilità, almeno teorica, che dietro a questo cambio di strategia ci sia qualcosa che sta per avvenire, è una cosa che intuitivamente arriva. Va bene, allora Marco, ti seguiamo da domani. Hai pagato? Ho il collegamento a Skateboard 24, ho fatto promozione. Ma quanto hai pagato, tra l'altro, che vado a richiedere? 30. Scusate, 30 gli hai lasciato pure, diciamo, la mancia. Vai a chiedere lo scottrino per la piadina. Figli, amici dei figli, compagni di classe. Ah, certo. Va bene, Marco, ti seguiamo da domani allora. Ma intervieni ogni tanto con noi, facciamo qualcosa. Sì. Dopo lo sentiamo. Mi piacerebbe tantissimo, perché adoro il vostro cume, quanto siate brillanti, anche l'aspetto, e simpatici. Grazie. Perché al base di tutto dobbiamo divertirci. Questo... E quindi voi si sente che lo fate, noi lo facciamo e speriamo di divertirci anche quest'anno col campionato. Questa è una cosa, posso dire, che può sembrare retorica, e poi è chiaro, noi siamo fortunati perché noi raccontiamo il calcio, ci pagano per andare a vedere le partite, io pagherei per vederle, a me, quindi voglio dire, siamo fortunati, questo è il punto di partenza, però veramente questo aspetto del calcio non dobbiamo mai dimenticarcelo, con il massimo rispetto dei tifosi ai quali una settimana può essere rovinata per una partita o per un calcio di rigore non dato, cosa del genere. Però insomma, poi di fondo siamo qui e questa passione ci tiene vivi, ci fa divertire, ci fa soffrire, ci fa entusiasmare. Dai, su, e dai. Bel pallone da calcio, acqua io sarò per toglierti la sete. Acqua io sarò per toglierti la sete. Sole salirò. Per asciugarti bene. Esatto, due carriere distrutte in pochi minuti di radio. Però magari una carriera nuova che esatto. Faccio un passo indietro, che almeno se Paolo ci ascolta lo salutiamo. Va bene, fammi salutare Marco Cattaneo. Ciao Marco. Ciao. Grazie della convocazione. Ciao. A presto. Ciao. Paga. Da domani salotto di Sky, nell'immediato va lì a pagare il conto o a farsi fare lo sconto. Allora 800 24 00 24. Abbiamo recuperato Michele Criscitiello. Ciao Michele. Buon pomeriggio, ciao a tutti, ciao. Direttore di Sport Italia, convocato per dirci dove va Suarez, perché Dzeko domani gioca, o meglio è convocato con la Roma, e che cosa sta succedendo? Sta succedendo che ovviamente l'operazione Milik è accaduto, tra l'altro Milik è andato a St. Moritz, ormai il giocatore della Roma che comunque deve liberarsi di Edin Dzeko, ormai lo sappiamo, perché la Juventus ha l'accordo su tutto e su tutta la linea. A questo punto bisogna capire soltanto l'enigma Suarez, se ha fatto un esame solo per questioni personali, ma diventa difficile crederlo, oppure perché c'è qualcosa che bolle in pentola. Ieri alle 23.50 il Mondo Deportivo rilanciava l'ipotesi Inter, ipotesi che però dalle fonti nerazzurre non è stata confermata. Ci sono anche altre, c'è anche un altro versante di quelli che credono Suarez, colpo della Juventus in extremis, qualora dovesse essere ceduto Dybala. Però qui attenzione, perché la linea tra il calciomercato e il fantamercato rischia di essere sottilissima. Sì, sono due scenari abbastanza inverosimili, però è giusto anche, no, Pier, quello che scrive qualche tifoso della Juventus. Ora, quando tu hai un giocatore già venduto, di fatto non lo porti via con la squadra nemmeno per farlo salire sull'aereo, per intenderci. Vabbè, per evitare che possa farsi male. Questo secondo cioè, me noi con Dzeko l'abbiamo già visto, ti ricordi, nel mercato di gennaio famoso, sempre convocato, poi alla fine era rimasto. Secondo me la sostanza, non voglio smontare le ultimissime notizie, ma io mi aspettavo che Dzeko venisse convocato. Cioè, qui c'è una trattativa che si basa sull'incrocio Milik-Dzeko. Su Milik si stanno facendo gli ultimi esami, le ultime analisi dal punto di vista fisico, perché comunque è un giocatore che viene da due crociati, anche se ha dato poi nei due anni successivi ampie garanzie sulla sua condizione fisica. E quindi o si faceva tutto prima di questa prima di campionato o si fa tutto lunedì. Cioè, mi sembra abbastanza ovvio che sia così. È ovvio che Dzeko pesa nel progetto della Roma più di quello che pesa Milik nel progetto del Napoli in questo momento. Quindi Dzeko te lo porti, probabilmente andrà in panchina. Poi non credo che sia così scontato che giochi. Poi adesso ne parliamo con Jacopo Savelli. Però insomma, mi sembra, che dici Michele, mi sembra tutto abbastanza logico, no? Abbastanza normale. Poi certo, se gioca 90 minuti magari mi sorprende pure a me, ecco, lo dico. Sono perfettamente d'accordo con Pier, il discorso è molto semplice, sono arrivati lunghi tutti, dal Napoli che doveva cedere Milik, Allan, Koulibaly, ha ceduto solo Allan per 25 di bonus, e siamo arrivati lunghissimi sul giro degli attaccanti. Questo è un problema dei dirigenti che purtroppo, mi dispiace dirlo, ma non hanno saputo vendere, e adesso si ritrovano davvero con l'acqua alla gola. Però quello che dice Pier è sacrosanto. Adesso vediamo Dzeko come andrà a finire. Silvano Martina, che comunque il suo agente cura gli affari, è abbastanza ottimista per la cessione, e poi ovviamente la Juventus deve cedere ancora diversi calciatori che in questo momento non riescono a trovare una sistemazione, e l'unica soluzione è l'incentivo all'esodo, più o meno come è successo per Higuain, ma sono anche altri soldi che perdi in un bilancio che già piange. Sì, bilancio della Juve che è stato aggiornato oggi, con passivo che incassa la minusvalenza di Higuain, si avvicina a un meno 90. Ultimo tema rapido, dove va Chiesa? Cosa succede? Oggi abbiamo letto tutti i commissari sulla Gazzetta dello Sport dire: ma lui ha la promessa di poter andare via, non vuole andare all'estero perché c'è l'europeo, chi vuole comprare continua a dirmi che il valore è sceso, ma io dico che non è vero. E quindi? Il valore è sceso perché l'errore è stato fatto un anno fa, doveva essere venduto a 50-60 l'anno scorso, quest'anno 50 non te li offre nessuno, questo è un dato di fatto. Per Chiesa, così come per De Paul, non arrivano all'Udinese 40 milioni di euro, quindi o si abbassa molto il prezzo, oppure i calciatori sono destinati rispettivamente a restare sia a Firenze che a Udine. Che diventa poi un problema, perché se non vendi fai fatica a mettere insieme tutto il resto. È un contratto lungo, però attenzione. Certo, tanti altri invece sono scadenza magari tra un paio d'anni, anche tanti dei giocatori che ad esempio l'Inter sta mettendo sul mercato. Grazie Michele. Ciao, buon lavoro. Ciao, grazie. Michele, direttore di Sport Italia. Allora, ci fermiamo, c'è la borsa, quando torniamo parliamo ancora della Roma, dai. Io sono interista, sinceramente cosa dirà Conte non mi interessa, spero che l'Inter giochi decentemente e che magari alziamo qualche trofeo, cioè di aspettare sto profeta che parla ogni volta per dire nulla. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Tutti convocati. Vorrei condividere con voi un po' il dispiacere per vedere partire Dzeko, perché è stato secondo me forse la punta più forte che ho visto, chiaramente non considerando Totti una punta ma un altro tipo di giocatore. cioè l'unico attaccante che ci abbiamo decente lo vuole la Juventus. L'anno scorso tra virgolette lo voleva l'Inter, abbiamo fatto muro in tutti i modi, noi gliel'abbiamo dato, mo riesce fuori. Dei tanti calciatori che ci stanno si interessano sempre a quei pochi decenti che ci avevamo noi. Abemus attaccante, evviva il re, evviva il re. Edin Dzeko è ufficiale, un nuovo giocatore della Juventus. No, non è ufficiale, lo diciamo prima che qualcuno si confonde. Oh, saluto Jacopo Savelli, ciao Jacopo. Ciao Jacopo. Ciao ragazzi, buongiorno. Come va? Va bene, teniamo duro. Teniamo amici. Ma sì, oggi, abbiamo fatto una cosa fra di noi perché poi bellissimo. Si va in vacanza. No, scherzo, da lunedì torna Carlo Genta, ecco, in questo senso, insomma. Quindi da lunedì torna il padrone di casa. Oh, devo dire una cosa, si dorme, si mangia anche senza Dzeko lì dalle tue parti o è impossibile? Perché io non capisco questa psicosi, se devo dire la verità. 34 anni e mezzo, ti danno 16 milioni, io capisco tutto. Ma non c'è la psicosi, c'è capisco la psicosi, tutto. No. Beh, insomma, hai sentito anche prima le voci dei tifosi. Se tu senti un... non lo so, Iaco, com'è il clima? Com'è l'umore complessivo? Ma ci sono ovviamente quelli che pensano come le persone che ho sentito poco fa, ma ci sono anche quelli che capiscono razionalmente, perché emotivamente è un discorso, è chiaro, Dzeko è un pezzo di Roma, ha fatto 5 anni importanti, è un giocatore simbolo, ha segnato 106 gol e tutto questo ovviamente rimane. Poi c'è un discorso razionale, da una parte lui legittimamente arriva a un'offerta importante da un club dove vincere è a portata di mano ed è solleticato da questo. Dall'altro la Roma guarda anche al domani e vorrei dire, non è che lo sta rimpiazzando con un ragazzino di 18 anni che uno dice sai un'incognita, prende un centravanti che sono 4 anni che sta in Italia, che ha 26 anni, 8 di meno, che è stato considerato unanimemente un grande giocatore al netto di due infortuni pesanti che però ha superato. Quindi razionalmente l'operazione io la capisco. Poi certo, Dzeko è Dzeko, lo sappiamo tutti. Jacopo è stato perfetto. Non avrei saputo raccontarlo con parole diverse. Cioè c'è una chiara dicotomia fra un aspetto irrazionale, sentimentale, perché Dzeko è stato veramente, lo dicevo l'altro giorno, secondo me uno dei giocatori nella top 10 sicuramente della storia della Roma. E veramente, diciamo, della Roma negli ultimi 20-30 anni è stato sicuramente uno dei due o tre giocatori più importanti, tolto Totti ovviamente, ma insomma siamo sui livelli di Pruzzo, sto bestemmiando, so che Pruzzo è il tuo eroe. Ma Dzeko ha vinto uno scudetto, vabbè, ho capito, certo adesso... in questi anni non ha vinto, ma Dzeko ragazzi ha avuto una continuità, va bene, ok, ma io credo che metà del problema dei tifosi della Roma sia che va alla Juventus, ma no, secondo me no. Non lo so, Jacopo, tu ne sai di più. Se è così è sbagliato, perché in questo momento la Juve non si può considerare il competitor della Roma. La Juve ha un'altra dimensione. La Roma sta partendo con una nuova proprietà che ha spiegato esattamente quello che vuole fare. Lo ha fatto con discrezione, ma anche con grande chiarezza. È una squadra che deve mettere a posto i conti, tenere i giocatori migliori, perché tutti dicono Dzeko, ma fino a un mese fa il problema era confermare Pellegrini e Zaniolo, che sono qua. Poi Zaniolo purtroppo si è fatto male, ma era stato confermato prima, non è che rimane dopo. Quindi la Juve è un'altra dimensione, è una squadra che ha la necessità di vincere non oggi, ieri. Prende Dzeko e lo affianca a Ronaldo, e se arriva Suarez ha un tridente offensivo di 120 anni, è un'altra storia, certo, un'altra dimensione. La Roma deve competere con Napoli, Milan, Atalanta, anche l'Inter la metto fuori, Lazio, per un posto in Champions League. Questa è la dimensione attuale della Roma, o ce ne rendiamo conto o facciamo voli pindarici che in questo non c'è momento dubbio, non e l'aspetto anagrafico è fondamentale, cioè comunque Milik è chiaro, l'unica incognita di Milik secondo me è legata al fatto che comunque sia pure ormai passato fortunatamente un po' di tempo ha avuto due infortuni pesanti, questo è indiscutibile, e infatti da quello che mi risulta gli ultimi, cioè per forza anche un eccesso di zelo, no? Cioè gli ultimi intoppi si legano proprio a un'ulteriore verifica delle condizioni delle due ginocchia di Milik. È andato in Austria, ma da un punto di vista di prospettiva, secondo me vendere Dzeko a 16 e comprare Milik a 25 è un'operazione intelligente, con tutto, ripeto, la stima per Dzeko, che è un giocatore enorme, enorme. Io sono di quelli che ti ha detto che secondo me è nella storia della Roma, ma pesantemente. Ma lo è sicuramente, non, su questo è fuori discussione, ribadisco, l'aspetto emotivo, passionale, il rispetto, la gratitudine, l'attacco. Ma anche lui si è sempre comportato bene, tra l'altro. Ma è uno che quattro giorni fa, sapendo che c'è questa trattativa in ballo, gli nasce una bambina e va a Cagliari a giocare un amichevole partendo da solo a mezzogiorno con l'aereo e raggiungere la squadra. Grande professionista. Ma chi lo avrebbe fatto al posto suo? Ma non è fuori discussione, tutto questo è fuori discussione. Oh, io voglio Milik lo voleva la Juve, però mi risulta che fino a 10 giorni fa. Quindi la Roma non sta prendendo in cambio di Dzeko Pippo Santonastaso. No, ma noi abbiamo grandissima stima per Pippo Santonastaso e anche per Milik, ovviamente. Salutiamo Pippo Santonastaso, andate su Google a cercarlo. Pippo Santonastaso. Volevo dire una cosa. In tutto questo, tu hai visto? Ma è vero che il primo giorno che è arrivato non se ne è accorto nessuno, o quasi, insomma, c'è chi non, lì a Trigoria, insomma, in sede, non si è accorto che era arrivato il nuovo proprietario. No, non è che non se ne è accorto nessuno, quello hanno fatto assolutamente senza avvisare, ci sono presentati senza dare pubblicità, non amano, diciamo, essere accolti da fotografi, operatori e via dicendo, per cui la prima visita è stata del tutto a sorpresa. Allora a Trigoria, quando veniva un dirigente, ovviamente erano allertati tutti, sai, come quando ci sono le visite ufficiali, per cui si mette a posto. Chi ha fatto il militare lo sa, che ti fanno pulire tutto, la camerata. Allora non è stato così, sono arrivati Friedkin, padre e figlio, assolutamente a sorpresa, d'altra parte è casa loro, sono voluti venire a vedere direttamente com'è la casa che hanno comprato senza fanfare. E posso dire che questo non vuol dire niente, perché poi quello che conterà sarà la dimensione dell'investimento e la qualità del management che verrà messo a capo del club, quindi è assolutamente una piccola... Però questa cosa, secondo me, è interessante, è positiva, perché invece molto spesso, visto che insomma tutto quello che si lega al mondo del calcio, nella Roma in maniera particolare, diventa mediatico, quindi diventa un'occasione di visibilità, a me questo approccio a fari spenti, così, a naso piace, nel senso profilo che basso. Mi sembra una cosa interessante, un approccio interessante. Certo, poi ripeto, certo, bisognerà capire. Poi conteranno i fatti, ovviamente. Gli investimenti, se metteranno i soldi, chi farà. Se la Roma le prime tre partite, adesso non a Verona, ma le altre due, vince, gioca bene, Milik segna, la questione è archiviata. I risultati faranno la differenza. Certo. Noi possiamo parlare di Dzeko, non se lo ricorderà più nessuno a parte di Luigi Pardo. Ti posso dire, se lo ricorderanno tutti, secondo me, con grandissimo affetto, perché anche i tifosi delle squadre avversarie, cioè Dzeko è veramente uno di quei calciatori che secondo me negli ultimi anni ha aumentato la dimensione del campionato italiano, è stato veramente un grande attaccante, un grande leader, e anche nei comportamenti, adesso io l'aspetto è vero che ha fatto bene Jacopo a sottolinearlo, di questa partenza dopo la nascita della creatura, è un'ulteriore sottolineatura della sua qualità. Per andare a fare un amichevole con un aereo privato, cioè presentato all'aeroporto, ha preso un volo di linea da solo, temevo ci stessi dicendo che era andato a nuoto per completare il quadro di Dzeko. Tra le cose che si dicono dei Friedkin, che vengono con il loro aereo pilotato da Dan, allora poteva anche essere che Dzeko andasse a Cagliari col volo, se fosse fatto dare un passaggio. Dobbiamo fermarci, ciao Jacopo, ciao, grazie. Ciao ragazzi, ciao, buona giornata. Ciao. Allora abbiamo il traffico, poi abbiamo Nick Roggero per parlare di Duplantis e vediamo se c'è tempo anche per qualcos'altro. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Tanto c'è tutta la redazione al lavoro per Pippo Santonastaso. La grande citazione di Fiorello, e poi è stato un grande attore, lo abbracciamo. Insomma. Salutiamo e via. Nicola Roggero, ciao. Ciao. Buongiorno, ciao Pier. Ciao. Ci parli invece di Armand Duplantis, che è alto come me, più o meno, un po' di più, sembra una persona normale, poi piglia in mano l'asta del salto in alto e fa dei numeri da circo. È alto esattamente 1,81 m, quindi non ha assolutamente un fisico da Superman. Dice bene, fra l'altro è un ragazzo normalissimo, anche perché fra l'altro è un ragazzo ancora molto giovane, deve compiere 21 anni, Lui di fatto è il primatista mondiale di categoria da quando ha 3 anni, perché il papà Greg, che era stato un eccellente artista americano da 580, ha costruito in giardino una pedana con un piccolo salto con l'asta, e se andate su YouTube ci sono le immagini di Duplantis che comincia a saltare a 3 anni e si impossessa dei vari record che ovviamente sono ufficiosi, dai 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, sino ad arrivare alle cose strepitose che sta facendo adesso. Credo che siamo in presenza di uno di quegli atleti che cambia la storia di una disciplina, così come è avvenuto per Sergei Bubka o come è avvenuto nella velocità per Usain Bolt. Siamo nell'incredibile che quando Duplantis, come è capitato nei meeting precedenti di Roma, si fermava a 6 metri, tutti dicevano: beh, deludente Duplantis, 6 metri, cioè una misura che ti avrebbe consentito di vincere tutte le Olimpiadi fino al 2016. Quindi siamo in presenza, ripeto, di qualcuno che sposterà molto avanti i confini di questa disciplina. Io credo che non è azzardato pensare che Duplantis tra nel giro di 4-5 anni porterà il record intorno ai 6.30. È quasi un peccato che quello di ieri non si possa definire record nel senso notarile del termine, no? Perché in realtà lui ha già fatto 6.18 indoor. Mi pare di aver capito che vale tutto in questo momento, e quindi diciamo lui ha superato Sergei Bubka, poi resta questo grande traguardo simbolico raggiunto, anche se non è realmente il record. È vero, hai detto bene, è un tecnicismo, perché adesso l'atletica ha unificato i record fatti al coperto e quelli all'aperto. In realtà nell'asta secondo me sarebbe bene invece distinguere per 2 ragioni fondamentali nel caso dell'asta. La prima è che al coperto non c'è il vento, e avere anche soltanto un po' di brezza per uno che va a 6 metri di altezza, quindi più o meno al secondo piano di una casa, cambia molto, può essere molto negativo. Invece indoor questo problema non c'è. La seconda cosa è che spesso le pedane dove si prende la rincorsa a livello indoor sono semplicemente appoggiate, hanno una capacità di restituire l'impatto dell'incedere del passo molto superiore, quindi è come se tu praticamente facessi un rincorso con le molle, e di conseguenza un pochino più facile rispetto alla pedana per esempio stadio olimpico, che ovviamente è una pedana in materiale sintetico che ovviamente a livello del terreno. Quindi secondo me vale la pena distinguere, e in questo senso bene ha fatto Duplantis a cercare comunque di impossessarsi anche del record outdoor, quindi il 6.15 o il 6.18 che ha fatto a livello indoor, perché tecnicamente c'è una differenza. Oh, intanto dall'altissimo arrivano complimenti a Nick per il secondo posto nel premio letterario del CONI per il libro sulla Premier League. Beh, noi denunciamo il fatto che ci sia un primo. Che ci sia un primo. È una roba scandalosa. Che premio è il Grelli? Non so, chiedi a Nick. È il premio della narrativa sportiva del CONI. Mi ha fatto molto piacere, fra l'altro arrivando secondo confermo una cosa, che io sono tifoso del Toro, no. Non può arrivare primo, c'è sempre un qualcosa. C'è una volgarità poi, no? Che impedisce il primo posto, però mi ha fatto molto piacere, quindi ringrazio fra l'altro la giuria del presidente Ramarino Bartoletti, che è stato molto carino perché mi ha avvisato del premio con un messaggio. Ringrazio i componenti, mi ha fatto molto piacere che il mio sforzo molto tra virgolette letterario è stato apprezzato. Che premio sarà? Ti faccio una domanda molto diretta: l'Arsenal ce la fa arrivare fra lui e 4? Sì, dai, secondo me sì. Digli, no. Digli di sì che si mette tranquillo, dai. Secondo me sì, però io guarda, Pier, tu sai che anche nei pronostici sono un tifoso del Toro, sbaglio come ridere, però insomma l'inizio mi sembra promettente dell'Arsenal. Arteta mi sembra che abbia fatto un buon lavoro, adesso è arrivata la conferma della lunghezza del contratto per Aubameyang, quindi si metterà tranquillo, uno che comunque da quando è arrivato a Londra non ha mai smesso di segnare. E mi sembra che l'Arsenal stia compiendo quel percorso di ricostruzione dopo l'era Wenger, che prima o poi pagherà dei dividendi. Liverpool e City davanti a tutte, Chelsea terzo incomodo secondo me. Io Chelsea lo metterei proprio avanti, perché ho visto per esempio sul livello delle altre due, secondo me sì. Perché ho visto Timo Werner, che è un giocatore che secondo me si adatterà perfettamente al calcio inglese, una velocità straordinaria, l'ho visto contro il Brighton, mi ha invece colpito un po' meno Havertz, ma sicuramente un elemento di qualità visto quanto ha fatto il Bayer Leverkusen, considerando che il Chelsea avrà risolto problemi difensivi che l'anno scorso l'hanno attanagliato con l'ingaggio di Thiago Silva, io il Chelsea lo vedo francamente molto molto vicino al Liverpool City. Sì, molto competitivo. Sì. Abbiamo 30 secondi, poi dobbiamo chiudere. Nick, come se la cava? Io ho questa grande domanda. Come se la cava Mourinho con il golf, visto che adesso gli mandano Bale? Come se la cava con? Col golf. Col golf. In che senso? Perché Bale, no, perché è un giocatore di golf. Beh, sì, insomma, Bale è un anno e mezzo che gioca a golf. Primo posto Wales, Galles, secondo posto golf, terzo posto Madrid. Era un po' delle sue priorità. Adesso il Tottenham. Che l'avevano presa benissimo, a Madrid. Esatto. Guarda, non sapevo di questa passione, peraltro che un britannico giochi a golf non mi sembra singolare. No, ma è il portoghese che ci interessa. Il portoghese non so il suo rapporto con il golf, quale sia. Perché non posso giocare? Perché vuoi? Guarda, Mourinho in questo senso è talmente geniale che trova il sistema di dire che il golf fa molto bene a un giocatore. E quindi Bale se gioca tanto golf, tanto ieri la scampata a 5 dalla fine, applaudive. Insomma, direi che se Bale scende con il par, con il suo handicap, sarà meglio anche sul campo da calcio. E poi credo che Bale avrà voglia di riscattarsi. Insomma, Madrid, certo. Di fatto, nell'ultimo anno era sì, gli interessava la Sciarelli. Bale, Madrid. sì. Faremo una puntata speciale. Alex, grazie, Nicola. Alessio Arellos. Ciao, Nick. Grazie, Nicola Roggero. Allora, noi siamo in chiusura. Il Milan, se arriva al terzo turno, prende la vincente di Beşiktaş, Rio Ave, giocherà fuori casa. Non è andata benissimo. Io ringrazio Lorenzo Nespoli, redazione, Gianmarco Ferronato in regia. L'appuntamento lo dico anche a Pierre, che qui è domenica alle 17. Perché tutti convocati il weekend. Questa cosa? Presentati alle 17. Domenica, ciao. Vado a Roma, voto. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ciao, Radio 24. Saluti! Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.